come l'onda del mare, così la fortuna. Siccome ne liti occidentali del mare oceano, quando cresce il flutto, in alcune parti ricopre con le sue acque l'onda grande spazio di terra, e quando è cresciuta quanto debbe, in poco d'ora ritorna con più veloce corso e lascia le rene scoperte, così fa la volubile fortuna a certi che per ispazio di tempo gli fa su montare in alto, e quando le piace volgere gli ritira a basso con istrabocchevole furore. Goro Dati.